I figli di guerra assomigliano a te, con l'età di un bambino che un bambino non è. Su di un pianto di madre venivi al mondo tu, la paura e la morte ti han dato del tu. Tutti i figli di guerra han veduto con te lacerarsi la terra senza un vero perché. Il tuo campo di giochi cresceva intorno a te, un giardino di croci che un giardino non è. Tutti i figli di guerra sanno questa realtà, che la fame si cura, il domani chissà. Hanno un viso da grandi che non chiede, non sa, il diritto all'amore che nessuno gli dà. Tutti i figli di guerra alla stessa tua età han dormito ad un canto che la gioia non ha, e imparato a tacere se una parola in più troppe volte vuol dire non tornare mai più. Tutti i figli di guerra, fieri come sei tu, hanno occhi profondi che non ridono più. Grandi mani straniere hanno ucciso per te tutte le primavere che aspettavano a te. Come te, senza amore, senza infanzia n'età, indifesi a tremare per quel che sarà, ha sofferto in silenzio il rosario dei guai, carezzando speranze per non cedere mai. Con le nostre miserie di sempre io e te, strano a dirsi cantiamo e sogniamo, perché quest'amore è una guerra che non spaventa me, né tutti i figli di guerra come te, come me.